Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Opla, siamo a settembre. Eccoci qua. Ritorno. Siamo tornati? No, noi non siamo, Ma non siamo mai andati via. Di cosa parliamo oggi? Allora, sono sicuro che nessuno di voi in ascolto sa che cos'è la Bridgmanite. E noi ve lo riveleremo spieghiamo. Insieme ai viaggi di involtini primavera che passano dal centro della Terra, insomma un sacco di cose nel piccolo libro delle curiosità sulla scienza. Poi parliamo di un bando. Di un bando della Fondazione Bracco, molto interessante, c'è tempo per mandare dei progetti riguardo l'economia circolare. E chiudiamo con un libro dedicato a Tesla, un grandissimo scienziato. Geniale, un po' pazzo, che sta ritornando con alcune sue grandi intuizioni. State con noi perché partiamo. Via. C'è un asino in copertina, ci dovrà spiegare che cosa significa. Ce lo dovrà spiegare chi? L'autore, esatto. Paolo Gangemi, benvenuto Paolo. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Allora, ti diamo del tu perché ovviamente sei un collega, grande divulgatore scientifico, di formazione matematico e qui stasera sei nostro ospite per raccontarci la tua ultima fatica, che è Piccolo libro delle curiosità sulla scienza. Ovviamente io e Federico ci divertiamo molto a leggere questi libri, è edito da Sironi Editore e come sempre abbiamo spulciato un po' tra i vari capitoli e vogliamo raccontare qualche aneddoto particolare. Intanto vuoi dirci subito l'asino in prima pagina? Beh, l'asino è diciamo un accenno spiritoso al fatto che tutti quanti siamo in qualche modo ignoranti e quindi curiosi di saperne di più. Ah, ok. Diamoci infatti dentro. Il sottotitolo è l'eccezione che non si studia a scuola, perché in effetti tu racconti delle cose molto interessanti, molto scientifiche, che a scuola non si studiano. No, non ve traccio. Allora, io partirei da questo, Federico. Se dai. Sei d'accordo, è una questione diciamo l'abbiamo già affrontato più volte, però qui viene affrontata in maniera divertente. Allora, immaginiamo di fare un buco per passare da una parte all'altra della Terra, Paolo. Allora, intanto non è banale, perché passare da una terraferma a un'altra terraferma già è un calcolo delle probabilità piuttosto sofisticato, nel passando senso che, per il centro però passando ovviamente per il centro, perché lo sappiamo, il nostro pianeta praticamente è ricoperto tre quarti di acqua, e quindi per non cadere nell'acqua dovremmo fare un buco che arrivi da terraferma a terraferma. Quindi già lì ci hai raccontato qualcosa sul libro. Sì, è molto improbabile, facendo un buco da una terraferma, sbucare su una terraferma. Sono molti pochi i posti dove succede. Alcuni dicono che l'Italia è agli antipodi della Nuova Zelanda, in realtà no. Se si fa un buco dall'Italia si sbuca nel mare. Si sbuca in mare, quindi niente. Non ha senso. Quali sono i punti che si sovrappongono di più? In realtà c'è uno schema sul tuo libro e veramente sono pochissimi. Sono pochissimi. Diciamo, l'unica area abbastanza vasta è il sud dell'Argentina e del Cile, e che corrisponde alla Cina orientale. E infatti tu proprio da qua inizi. Supponiamo che un cinese voglia inviare un involtino primavera ad un collega argentino. Patagoni vanno pazzi, sì, certo, per gli involtini perché primavera. È la parte ovviamente più meridionale dell'Argentina. E a questo punto l'involtino parte, immaginiamo di fare il buco, e lì tu racconti tutto quello che succede all'involtino, praticamente nel viaggio passando al centro della Terra, e poi riesci a tornare di là. Dici un po'. Allora, intanto bisogna chiarire che è un esperimento mentale, come si dice. Sì, sì, non sì. Non è pensabile, certo, in pratica fare una cosa del genere. Grazie, Paolo. Di difficoltà teoriche, pratiche. Hai fatto bene a dircelo, perché sai, magari qualche mattacchione. Infatti, alcuni matematici e fisici si sono divertiti invece a immaginare, ecco, in assenza di attrito, in assenza di aria e tutto quanto, nelle condizioni cosiddette ideali, cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Che l'involtino arriva effettivamente al centro della Terra sempre più veloce. Cioè accelera. Accelera fino al centro della Terra, poi comincia a rallentare, però riesce ad arrivare fino all'altra parte. Cioè un po' si fa vedere in Patagonia. Sbuca appena appena a livello della superficie. E lì lo prendi o se no... O lo prendi o cosa gli succede? Torna giù. E ritorna fino alla Cina, da dove era partito. Cioè praticamente oscilla all'infinito tra il punto di partenza e il punto di arrivo, tra A e B, avanti e indietro. Oscilla all'infinito fra A e B, in queste condizioni ideali. La cosa strana è che ci mette molto poco. Uno si immagina che per fare... Cioè quanto più o meno? ...chilometri ci vuole tanto. Invece in poco più di 42 minuti... Fa tutto. ...l'involtino arriva dalla Cina alla Patagonia. Ah beh, quindi in realtà sarebbe fattibile. C'è una bella trazione, insomma. Una bella velocità. E la cosa ancora più strana è che succederebbe la stessa cosa su un altro pianeta con la stessa densità. Ah. Cioè, se la Terra fosse 10 volte grande, ma con la stessa composizione, il tempo sarebbe sempre comunque di 42 minuti e 12 secondi. Ah, perché andrebbe semplicemente più veloce. Dovrebbe fare più strada, ma sarebbe più velocemente, e quindi il tempo sarebbe lo stesso. Perché ma... sarebbe attratto più velocemente al centro. C'è più massa, insomma, c'è più forza gravitazionale. E scusa, se andassimo su Marte però non è così. No. No, ma non perché è più piccolo, perché ha una densità diversa. Perché ha una densità diversa. Proseguiamo, Federico. Ah, ecco, questo materiale interessantissimo che è Brigmanite o Brigmanite, non so come, che tu hai scoperto praticamente perché non ne sapevamo esistenza. In realtà abbiamo scoperto io e Federico leggendo il tuo libro che è il minerale più diffuso sulla Terra. Non l'abbiamo mai sentito. Non l'abbiamo mai sentito e non è un caso. Devo dire che non l'ho scoperto io, ovviamente l'hanno scoperto degli scienziati e hanno scoperto con misure indirette che effettivamente il minerale è più diffuso sulla Terra. Il 50% della Terra è composto di brigmanite. Come si brigmanite, ecco, che detto. Deriva da lo scopritore. Lo scienziato a cui hanno intitolato il minerale dopo che è stato scoperto. Okay. Vabbè, ma dov'è? Cioè sotto? È molto sotto, infatti, se uno dovesse dire sulla faccia della Terra non esiste. Nella Terra sì. Solo in profondità, molto in profondità. Cioè diversi. Non l'ho mai toccato con mano. Ma come si fa a sapere che è molto sotto? Allora, con misure indirette, tramite onde, eccetera, hanno valutato quali sono i minerali che compongono gli strati inferiori. E hanno trovato. E diciamo, sono arrivati alla conclusione che questa brigmanite è il minerale più diffuso. Ma cosa ci faremmo? Non si sa niente. È composto, tu dici, da un silicato di ferro magnesio, quindi forse potremmo anche sì utilizzarlo. Qualcosa, sì. Allora, è stato rifatto in laboratorio, però diciamo a scopi solamente di ricerca. Ah, e quindi non è uscito granché. Però, caspita, tu ci riferisci che il 93% del mantello inferiore della nostra Terra è composto da questo minerale. Secondo queste stime, sì. E quindi qui viene un paradosso, uno dei più bei paradossi della scienza, secondo me, perché il minerale più abbondante del nostro pianeta è del tutto assente sulla superficie. Per averlo in mano, diciamo, a parte gli esperimenti in laboratorio, l'unica volta che è stato trovato in natura è stato trovato non sulla superficie terrestre, dove appunto manca, ma su un meteorite. Ah, quindi arriva dallo spazio. Certo. Quindi la cosa incredibile è che, pur essendo il minerale più diffuso sul nostro pianeta, per toccarlo con mano abbiamo dovuto aspettare che piovesse dal cielo. Questo è bello, un bel paradosso. Però prima o poi ce lo troveremo in un integratore alimentare, che c'hanno sempre questi metalli. Vedrai che diranno che è l'unico con la brigmanite. Ecco. Nuovo con brigmanite. Oh, io direi, c'è un'altra curiosità che ho scoperto appunto leggendo il libro, che esiste praticamente una sorta di notte di San Lorenzo, che è quella notte famosissima di stelle cadenti che cade il 10 di agosto di ogni anno, quindi tanti dei nostri ascoltatori l'avranno vista. Ce n'è un'altra corrispondente molto simile, che è la notte di Santa Elisabetta, che però cade in inverno e quindi nessuno se la fila. Povera Elisabetta, diciamo con una metafora sportiva si può dire che Santa Elisabetta è la grande sconfitta. Perché dal punto di vista astronomico non ha niente da invidiare a San Lorenzo. Ecco, è il fenomeno, diciamo, che è il medesimo? È assolutamente lo stesso. Ovviamente quando si parla di stelle cadenti sappiamo che non sono affatto stelle. Esatto, dai, dici qualcosa in più che magari non tutti lo sanno. Ok, sono sciami meteorici lasciati dalle comete quando passano vicino al Sole, e la Terra, quando gira intorno al Sole, intercetta questi sciami, che sono piccole particelle, che quando entrano nell'atmosfera terrestre danno presente quella scia che noi vediamo e che si infiammano praticamente, vengono bruciate e lasciano proprio quella scia di fuoco. A volte è tremenda. Quando arrivano i bolidi, li chiamano così, no? Sono quelli che fanno un fuoco micidiale. Quelli dipende anche dalle dimensioni. Comunque, anche quelle piccole possiamo vederle quando il cielo è sereno, per esempio, ecco, la notte di San Lorenzo. Ma lì bisognerebbe andare in novembre in Sudafrica. Per esempio. Però siccome, diciamo, tutti i miti, le poesie, le leggende della nostra civiltà occidentale sono nati nell'emisfero nord, la notte di San Lorenzo ha ispirato poeti, ha ispirato leggende, no? Si dice che le stelle cadenti sono le scintille che vengono dalla graticola del martirio del santo. Oppure si dice, per esempio, Pasqua, in una poesia che si chiama proprio 10 agosto, dice che sono le lacrime del cielo. purtroppo, ecco, è sfortunata, capita il 17 novembre, quando in Europa è molto più difficile che ci sia un cielo sereno rispetto ad agosto, e anche se ci fosse il cielo sereno, non mi vedo, ecco, tutti gli innamorati che stanno al freddo a guardare tutta la notte. Sì, diciamo che non è comodissimo. No. Il libro è pieno di queste storie, anche sugli hobbit, anche sulle meduse, anche tantissime storie di matematica, perché giustamente Paolo è di formazione matematica, però non è che possiamo raccontare tutto, Paolo. Quindi ricordiamo il titolo del tuo libro, Piccolo libro delle curiosità sulla scienza, edizione Sironi. Buona estate, grazie Paolo, ciao. Grazie a voi, ciao. Ci sono auto qua e là e adesso ci dicono come va. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parliamo di economia circolare, ve ne parliamo perché c'è un bando, una chiamata da parte di una fondazione importante, la Fondazione Bracco, e qui con noi adesso questa sera c'è Gaela Bernini. Buonasera Gaela. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuta. Grazie. Lei per la fondazione è responsabile dei progetti scientifici e sociali. Allora, economia circolare è una cosa di strategica dal punto di vista dell'importanza che può rivestire come effetti sulla sostenibilità del pianeta. Ci sono tanti esempi, magari molto articolati e complessi. Uno che ci viene in mente tra i più semplici per far vedere in che modo questa... C'è bisogno, diciamo, di un cambiamento fondamentale anche di punto di vista. Può essere quello, per esempio, della verdura. Tutto ciò che è verdurame si ricicla ormai in tanti modi. Poi a un certo momento c'è qualcuno che ha detto, ma oltre a poterla riciclare, la verdura contiene anche acqua? Sì, certo, è al 99% fatta di acqua. Allora, recuperiamola. Recuperiamo anche quell'acqua e, per esempio, la stanno utilizzando per metterla nei concimi degli animali. Quindi si riesce a recuperare tutto. La fondazione è partita con un bando. Tra l'altro dobbiamo dire che ne parliamo perché ci sono ancora, c'è ancora qualche giorno per poter iscriversi e partecipare, perché chiude il 15 di settembre, quindi tutte le startup che in qualche modo sono impegnate nell'economia circolare possono partecipare e ricevere poi i premi di cui Gaela ci racconta. Certo, sì, invitiamo tutti a partecipare entro il 15 di settembre a questo bando proprio dedicato alle startup impegnate nell'economia circolare. I premi sono per le migliori 3 startup inizialmente un seed capital di 5.000 euro, ma a questo si affianca un anno di incubazione presso Speed Me Up, che è l'incubatore di Università Bocconi di Milano e Camera di Commercio, che offre dei servizi di tutoring e formazione per i giovani imprenditori grazie proprio alla faculty di Bocconi. E poi partner di questa iniziativa di Fondazione Bracco è il fondo di investimento Oltre Venture, che pronto proprio ad investire in buone idee. Quindi mettiamo proprio insieme un percorso per promuovere delle iniziative di giovani imprenditori, quindi noi chiediamo a giovani imprenditori che siano under 39 anni, quindi il gruppo che propone quest'idea come età media deve avere meno di 39 anni, di proporre le loro idee, di applicare a fondazionebracco.speedmeup.it e noi siamo pronti a premiarli. Le chiedo una specifica tecnica, oltre all'età, chi partecipa deve essere in un team tipo startup oppure può essere anche un innovatore o innovatrice singolo? Può anche essere un innovatore o un'innovatrice singolo. Quello che si premia è, in genere nei progetti di startup, sì, la buona idea, la scalabilità del progetto, l'innovazione, ma anche la capacità del soggetto proponente o del team di competenze e di preparazione. Quindi più si è, spesso migliore è il gruppo di competenze. Perché Gaela, ci fa qualche esempio di quelle che possono essere ad esempio le idee innovative? Certo è difficile dirlo a priori, però magari se qualcuno ci sta ascoltando e ha una startup in ambito appunto di economia circolare, se ci fai qualche esempio di quello che vi aspettate, qualcosa è anche già arrivato, no? Mi pare qualcosa è già arrivato, certo, perché il bando è aperto da qualche mese. Noi abbiamo avuto di diversi settori, dal settore digital, che è sempre forte nelle startup, come sappiamo, al settore agri-food, che è molto interessante, come dicevate voi. Ci sono degli esempi in Italia, uno per esempio conosciuto nel sud Italia, un gruppo cooperativo in Calabria che si chiama Goel Bio, questo non ha applicato a noi ma è un esempio per dare così un'ispirazione, che produce ovviamente, la Calabria, forte produttore di arance e bergamotte, bergamotto vendono frutti, e adesso alla vendita dei frutti si utilizza anche gli scarti, quindi delle arance, del bergamotto, per produrre degli oli essenziali per la biocosmetica. Ecco, questo è proprio un esempio classico, direi, di economia circolare, quindi oltre il modello usa e getta, per un modello nel quale le risorse, oppure il termine di produzione di una fase, diventa poi l'inizio di un'altra fase produttiva. Poi ci sono anche delle piccole idee, delle piccole soluzioni anche in termini di design, anche in termini di processi organizzativi e produttivi, quindi anche di servizi, perché no? Un grande tema, per esempio, di cui parla anche l'Unione Europea, è il riutilizzo dei cellulari, cioè la rigenerazione dei cellulari, e ci sono proprio esempi nei quali non si distingue la differenza tra un telefono cellulare nuovo, uno smartphone, e uno rigenerato. Ecco, questo è un grandissimo tema, certo, proprio per l'utilizzo di materie prime, che sono poi le risorse naturali, che sono quelle che cerca di salvaguardare l'economia circolare. Allora, facciamo così, ricordiamo che per poter partecipare e iscriversi c'è tempo fino al 15 di settembre, quindi un po' di giorni ci sono ancora. Il sito è fondazionebracco.speedmeup.it, se non erro, Gaela, giusto? Giusto, giusto. Ok, e comunque ricordiamo che sulla nostra pagina, sul sito di radio24.it, vi faremo trovare il link per scaricare ovviamente il bando, avere maggiori informazioni e quindi partecipare. Grazie Bernini, e ci sentiamo poi dopo. Bene, bene, allora appuntamento a fine novembre, grazie. Buona grazie, serata. A presto, arrivederci. Arrivederci. Che personaggio Nikola Tesla, è uscito un libro su questo pirotecnico, scienziato, tecnologo, l'ha scritto il libro Edoardo Segato, che è qui con noi questa sera. Buonasera Segato. Buonasera, buonasera Federico. Edito da Oepli nella collana Microscopi. Allora, che cosa possiamo dire? Forse la prima roba da dire, perché poi vedremo degli aspetti che appunto sono davvero strani e suggestivi di Nikola Tesla. Siamo alla fine dell'Ottocento e poi a cavallo del secolo scorso, degli inizi. La prima cosa da dire, Segato, è che stiamo parlando di un personaggio che ha avuto un'influenza impressionante su ciò che è stato lo sviluppo della tecnologia. Possiamo dire che i motori elettrici arrivano da lui, no? Non solo i motori elettrici, ma in realtà anche molte piccole tecnologie che lui stesso non aveva brevettato, in realtà sono arrivate fino a noi in modo un po' sottocutaneo, se vogliamo, perché per esempio cose anche non documentate dello storico, ma reperibili in fonti un po' più marginali, come tubo al neon che viene ripiegato su se stesso. Queste sono tutte soluzioni che lui aveva trovato nello sviluppo personale della propria tecnologia. Sì, certo. È famoso Tesla per aver prodotto un grande numero di tecnologie che poi non sono state neanche commercializzate, che lui semplicemente utilizzava nei suoi laboratori nel corso degli anni. Sì. Soprattutto nella trasmissione di informazioni e di energia, seppur a corto raggio, di senza fili. Senza fili, che era qualcosa su cui lui ha lavorato moltissimo. Il fatto è che questo personaggio, e qui nel libro è descritto bene, era, come dire, avvolto in un vortice di creatività, per cui tirava fuori un sacco di cose e non le curava più di tanto dal punto di vista dell'applicazione. E poi, ecco, io voglio solo leggere tre righe dal suo libro, Segato. A un certo momento lei scrive: dai palchi arrivava sempre una luminescenza calda e caleidoscopica che avvolgeva il pubblico. La figura elegante e asciutta di Tesla si elevava talvolta fino a più di 2 metri d'altezza sulle suole di sughero isolante che indossava nelle dimostrazioni. Sempre in fracca e cravatta bianca teneva conferenze che tutti descrivevano come un visibilio per gli occhi e per le orecchie. Era anche un grande affabulatore di folle con questi esperimenti che faceva live, dal vivo. Che cos'erano esattamente? All'epoca queste cose venivano viste come... cioè, stupivano talmente tanto le persone che poi sono finite addirittura a intessere intorno alla figura di Tesla delle suggestioni anche eccessive, è vero. Film come The Prestige riguardo agli illusionisti, esatto, sempre dipinto un po' come... un po' un mago. In realtà è successo molto con tante figure dell'Ottocento, perché ancora la rivoluzione industriale, la seconda, non aveva completamente cambiato la società a livello proprio massivo, e di conseguenza c'era ancora tante, sia a livello terminologico, quindi teorico, teorico, sia a livello pratico, non si vedeva molte tecnologie avanzate perlomeno. Sì. Oggi cose del genere, quindi lavorare con i campi magnetici, la luce, accelerazione di elettroni e di altre particelle a alta velocità è abbastanza normale. È una quotidianità. Non è specializzati. Il fatto è che lui lo faceva in pubblico. Ecco, siamo nei grandi anni dell'arrivo dell'elettricità dappertutto, no? Dobbiamo tenerlo presente. Tesla illumina la fiera di Chicago, la fiera internazionale, creando uno stupore infinito, e qui altro che effetti magici. Esatto. Per lui deve essere stato molto appagante vedere le persone che reagivano così. E in realtà era una specie di controprova per lui che stava andando nella direzione giusta. C'era sia lo stupore a livello di proprio quasi quello infantile, capito? Di vedere la meraviglia, lo stupirsi di fronte alle meraviglie del mondo, sì. Sia lo stupirsi a livello tecnologico, di utilità e di applicazione, poi anche se poi purtroppo non è riuscito a applicarlo in maniera strutturata, compiuta, certo. Però in pratica lui in pubblico faceva queste performance nelle quali riusciva con, come dire, trasmissioni di elettricità a distanza senza cavi, creava delle bolle sferiche luminose. Credo che peccato non avere un filmato di quelle cose. Ecco, però io vorrei adesso invece vedere un altro aspetto, e cioè la cosa interessante di questo testo è che ci racconta anche come stia ritornando di attualità una serie di principi, paradigmi, technicalities sul quali Tesla ha lavorato. Beh, dunque, da un lato possiamo vedere ormai quella che è sulla bocca di tutti, la Tesla Motors, che va proprio sui brevetti del motore magnetico, motore elettrico di Tesla, di Nikola Tesla. Questa è, diciamo, l'applicazione più ormai quella più famosa, ma anche meno nota, nonostante il nome, è che oggi sta diventando quasi più conosciuta, la Tesla Motors, che Tesla. Quando uno dice Tesla, io dico... è l'auto. L'auto. È vero, è così. L'azienda automobilistica. No, lo scienziato che ha brevettato il primo motore. Certo. Quindi da un lato c'è questo, che comunque è conosciuto e applicato già da un po', magari non in ambito automobilistico, certo. Però comunque sono già conosciute certe tecnologie. Da un lato ci sono le cose un po' più complicate a livello più, appunto, di magnetodinamica e... cose un po' più tecniche a livello perlomeno di gestione tecnologica, tant'è che nel 2012, comunque 4-5 anni fa, una delle cose che ha fatto più scalpore è stato proprio un gruppo di ricerca di Stanford che ha lavorato su una tecnologia sviluppata poi invece nell'MIT, che è un fenomeno chiamato accoppiamento di risonanza magnetica, che è uno tra i tanti che Tesla aveva scoperto e sviluppato e iniziato a utilizzare a fine 800, si parla di 1890-91. Sì. Cose che lui nel corso dei 20 anni successivi non solo ha migliorato, ma proprio padroneggiato a livello di distanze, calcoli, dettagli molto precisi, e che oggi viene riscoperta. Viene ritornato. Se vogliamo anche umile, come ti dicevo, nel senso che dopo lo sviluppo di questa tecnologia è stata fondata una società che si chiama Whitricity, l'unione di Wireless Electricity, la quale è stata presentata al TED Talks. E il primo riferimento che viene fatto dal CEO dell'azienda è proprio Nikola Tesla, perché è stato il primo ad aver sviluppato e applicato in maniera molto multidisciplinare, se vogliamo, perché l'ha applicato a tante sue tecnologie, questa scoperta. È una cosa è molto sintomatica questa cosa, perché siamo neanche nel 2000, negli anni 10. Certo. È una cosa che sì, erano intuizioni e scenari teorici che lui, appunto, essendo poi il personaggio che era, non aveva approfondito più di tanto, e che sono rimasti sopiti per quasi un secolo, e adesso stanno ritornando perché si scopre che c'erano dei dati molto interessanti di realtà. Allora, io ricordo il libro Tesla, lo scienziato contro, Edoardo Segato, che era qui con noi questa sera, ed è edito nella collana Microscopi di Oepli. Grazie Edoardo Segato, buon lavoro. Grazie mille Federico, grazie a tutti, buona serata, arrivederci. Nikola Tesla, che spettacolo che dovevano essere queste sue cose teatrali con i globi luminosi che giravano qua e là. Sì, però devo dire che non c'è mai più stato nessuno così spettacolare così, no. E non lui. Abbiamo nemmeno un film. Beh, peccato. È andata così. Era l'inizio del cinema. Noi siamo in conclusione, quindi buona serata a tutti, noi ci sentiamo settimana prossima. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao. Ciao.